Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Globetrotter 24 di Valeria De Rosa. Buon pomeriggio, un ottobre a due facce in questo 2020, freddo al nord, ancora caldo al sud, piogge sparse qui e lì. E noi come sempre curiosiamo tra possibili fine settimana, fughe giocose e i piaceri del palato, il sommario. Questa settimana andiamo in Val Chiavenna alla scoperta di un palazzo cinquecentesco che scampò a una alluvione. Poi facciamo ancora un giro per cantine e cominciamo a prepararci per Halloween. La Val Chiavenna è una valle non molto grande ma ricca di sorprese e esperienze da fare. Non sapevamo però che nasconde anche dei tesori, come Palazzo Vertemate Franchi. Ci accompagna in questo viaggio Alessandra Tavasci del Consorzio Turistico della Val Chiavenna. Since my man and I ain't together. Ci troviamo in Val Chiavenna, in questa piccola e stretta valle al confine con la Svizzera, chiusa tra le montagne. E in questo luogo sorge Palazzo Vertemate Franchi, un bellissimo palazzo rinascimentale che si è salvato dalla catastrofica alluvione che avvenne nel 1618. Il Monte Conto, dopo giorni di continue piogge, purtroppo franò e cancellò completamente tutto l'antico borgo di Piuro. Perché il paese di Piuro che vediamo noi oggi non è quello originale, venne solamente poi ricostruito a seguito dell'alluvione. Il 4 settembre purtroppo era un giorno difficile per gli abitanti di Piuro, erano le 8 di sera, tutti erano già ormai tornati a casa dai campi, quindi nessuno se lo aspettava, era già ormai notte e il Monte Conto franò, cancellando completamente tutto quello che poteva essere la loro vita di tutti i giorni. Quindi il commercio, che era ciò di cui si viveva in Val Chiavenna, venne completamente stroncato e soprattutto venne bloccato anche il passaggio. Passaggio veramente di Avenna è sempre stato un punto di riferimento dal quale si poteva commercializzare con tutta l'Europa. Da Roma salivano, da tutta Italia salivano e valicavano i vari passi alpini facili, come il passo dello Spluga, il passo del Maloja, del Settimo e del Giulia, e in quel momento la frana del 1618 impedì qualsiasi tipo di comunicazione con tutto il resto d'Europa. Palazzo Vertemate è sopravvissuto da questa tragedia perché si trovava leggermente spostato rispetto all'alluvione, più in alto rispetto al passaggio della valle e protetto anche dalla montagna. Questo Palazzo Vertemate venne costruito insieme all'originale palazzo che venne distrutto sotto la frana. Quell'antico palazzo si dice che potesse ospitare re e regine per le sue bellezze ed era veramente veramente grande, a seconda appunto anche dei vari dipinti che abbiamo ancora oggi all'interno del Palazzo Vertemate. Life is bare. Gloom and misery everywhere. Stormy weather. La bellezza di Palazzo Vertemate, anzi la particolarità di Palazzo Vertemate, è di trovarselo lì. Nessuno se lo aspetta, nessuno pensa di trovare in mezzo a tutta questa vegetazione un palazzo anche molto grande, ma completamente pulito, lindo e anche ben nascosto all'interno del suo muraglione. Però quando si inizia ad ammirare il giardino, si inizia a vedere la cura nel frutteto, la cura nel giardino all'italiana, nella peschiera, nel castagneto, nell'orto e ovviamente nel vigneto, questo bellissimo vigneto dal quale i signori Vertemate producevano un vino passito. Poi piano piano ci si avvicina all'ingresso del palazzo, alla facciata principale, dove come decorazione si ha solamente questo grandissimo portale dove sono stati incisi i nomi dei due fratelli, Aloisio e Guglielmo Vertemate, che hanno appunto commissionato la realizzazione di questa villa. Una villa ovviamente che era solamente di svago, la villa per gli ospiti, non era il palazzo principale. Piano piano si sale le scale e davanti a sé, davanti appunto a noi, si apre un mondo. Si apre un mondo della mitologia, perché Palazzo Vertemate è completamente dipinto da storie legate alla mitologia e soprattutto alla metamorfosi di Ovidio, ma non solo questo, perché più ci si alza nei vari piani interni, i soffitti diventano tutti di legno, intarsiati, uno diverso dall'altro, ed è proprio questa la bellezza di Palazzo Vertemate. Ogni angolo nasconde un segreto, nasconde un dettaglio che la prima volta che si entra non si riesce a percepire. Nell'atrio corridoio si può capire come il palazzo era diverso, come cambiò nel corso degli anni e dei secoli, tant'è che le cantine sono anche collocate e disposte in un modo particolarmente diverso rispetto a tutto quello che cresce sopra. Altra cosa di Palazzo Vertemate è che si può ben capire come è suddiviso in due parti, nel senso che sul lato sinistro del palazzo abbiamo delle sale di rappresentanza, quindi molto più ampie, più luminose, più decorate e importanti. Sul lato sinistro invece ci sono le stanze di vita quotidiana, quindi i salotti, le stanze delle riunioni, le camere da letto, ma sempre comunque ricche e perfettamente conservate. Molto belle sono le stanze interne rivestite tutte di legno, che dalle nostre parti vengono chiamate stue, proprio per questa particolarità del rivestimento, di tutti i legni tipici del nostro territorio, e ovviamente stue anche perché c'è la presenza della pigna, questa stufa che viene caricata dalla stanza retrostante per scaldare invece quella che sta davanti, una tecnica usata ovviamente anche perché in questo modo la servitù non sporcava e non disturbava i loro signori nelle loro varie faccende. Altre particolarità è che Palazzo Vertemate come ho già detto prima, delle particolarità. Ci sono dei luoghi in cui non tutti potevano accedervi e che rimangono ancora segreti tutt'oggi. Poi si sale ai piani superiori e anche le stanze qua iniziano a essere più ricche, a essere dipinte. I colori degli affreschi sono perfettamente conservati, proprio grazie anche alla mitigazione del clima che abbiamo in Valchiavenna. È un clima molto particolare e permette anche la conservazione di tutti i dipinti, tant'è che se vi capiterà di venire a Chiavenna, in Valchiavenna, in alcuni luoghi ci sono le palme, oppure gli oleandri, le piante dei limoni, che si dice comunque in montagna è piuttosto difficile. Arrivando poi anche all'ultimo piano, tutti rimangono stupiti e affascinati dalla bellissima stanza dello Zodiaco, che è una delle chicche del Palazzo Vertemate, un soffitto immenso, completamente lavorato nel legno e tutti dipinti affrescati con storie legate anche allo Zodiaco, quindi ai segni zodiacali. L'ultimo weekend ottobre, 30 e 1 novembre, ci sarà questo evento dedicato a degustazione dei vini, anche per chi non è particolarmente esperto nel vino, diciamo che questo evento può insegnare tanto, nel senso che si può imparare l'aspetto culturale della Valchiavenna, quindi ci sono visite guidate all'interno di Palazzo Vertemate, tra l'altro di sera al buio, cosa che è molto particolare perché non è sempre possibile farlo, molto suggestivo, e al termine di queste visite guidate c'è la possibilità anche di fare degustazione del vini e anche della cena abbinata ai vini, quindi un evento veramente molto bello, suggestivo, in un'atmosfera fantastica, perché comunque è accanto a Palazzo Vertemate ci sono questi rustici, ad esempio la statua del custode, quindi un ambiente tutto rivestito in legno d'epoca, l'epoca rinascimentale, quindi fine 500, primi del 600, dove queste tovaglie bianche, i calici e una finestra su tutta la Valchiavenna toglie il fiato, veramente veramente molto bello, quindi si può capire i sapori, gusti flussi del passato mischiati ai giorni nostri. Quindi questo è l'evento che ci sarà l'ultimo weekend di ottobre, che invito appunto tutti quanti a venire a provare. E altra particolarità è che a novembre saremo aperti ancora tutti i weekend, dal venerdì alla domenica compresi, e con visite guidate, e ovviamente per tutte le norme del Covid solamente su prenotazione. Keeps raining all of the time. Oh yeah, life is bare. La Val Chiavenna, come ho già detto all'inizio, è una valle neanche tanto grande, però è concentrata di tantissime cose, c'è una concentrazione di tantissime attività che si possono fare e tantissimi panorami e nature diverse, perché appena si imbocca la Val Chiavenna, uscendo dalla superstrada, si arriva al lago, il lago di Mezzola, dove ci sono bellissime attività anche da fare lì attorno, come passeggiate lungo la pista ciclabile, che comunque parte già dall'inizio della Val Chiavenna, oppure si può visitare anche San Fedelino, quindi si può mischiare lo sport e la cultura insieme anche alla natura. Poi salendo verso Chiavenna si cambia paesaggio, inizia a essere un pochino più montano, e si arriva fino alla bellissima città di Chiavenna, una città storica veramente veramente ricca, e il centro storico è caratterizzato da bellissimi palazzi, tutti di famiglie molto importanti di Chiavenna, perché Chiavenna, bisogna dirlo, è sempre stata una città piuttosto ricca, ma proprio grazie al commercio e ai tanti passaggi che ha avuto nel corso dei secoli. E da Chiavenna si biforca i due passi alpini, il passo dello Spluga e il passo del Maloja. Passo dello Spluga che ancora oggi può essere visto e apprezzato grazie anche alla via Spluga, quindi questo sentiero storico lungo 65 km da Chiavenna fino a Tusis in Svizzera, un percorso che già facevano i romani e che ancora oggi è possibile fare, quindi un cammino anche piuttosto meditativo, è bello da fare da maggio fino ad ottobre, anche perché poi si arriva ai 2000 metri d'altezza, quindi in inverno inizia a fare anche un po' freschino e c'è la neve. Dall'altra parte invece si imbocca la Val Bregaglia, dove anche lì ci sono bellissime attrazioni come le famose cascate dell'acqua fragia, che stupirono anche Leonardo da Vinci quando venne a Chiavenna e le citò appunto anche nel suo Codice Atlantico. Poi da lì si arriva a Belfort, che è legato a Palazzo Vertemate Franchi, perché sono gli antichi scavi archeologici di quella che poteva essere l'antica Piuro, e Belfort si pensa possa essere uno di questi palazzi dei signori Vertemate. Tutta la pista ciclabile collega queste bellezze, e quindi si può anche in sella la propria bicicletta o e-bike o muscolare attraversarla per tutto tondo, e poi da Chiavenna e dal basso della valle partono tantissimi sentieri che ci portano anche alle vette più alte. Bellissimi anche borghi di mezza montagna, perché una volta in Val Chiavenna non si viveva in basso, ma si viveva appunto a mezza costa, ad esempio Pianazzola, Oschione, Savogno, tutti i borghi che lasciano senza fiato. Ci fermiamo solo per qualche momento, non andate via. Globetrotter 24. Ottobre è ancora tempo di vendemmia. Questa volta andiamo in Abruzzo, una regione spesso sottovalutata, ma che anche in tema di vini non ha nulla da invidiare alle altre. E abruzzese è il presidente del Movimento del Turismo Vino, Nicola Dauria. La vendemmia si sta dimostrando un po' come erano le previsioni, molto molto interessante. Abbiamo una produzione che bene o male è costante, anzi in alcune parti di uve abbiamo anche una produzione un po' più, diciamo, un aumento di produzione con una qualità sicuramente molto molto interessante e molto buona. Chiaramente la cantina in un certo senso ha una sorta di possibilità molto più affidabile rispetto ad altre situazioni, perché noi approfittiamo del fatto di poter ospitare all'aperto, quindi fin quanto è possibile questo le persone vengono tranquille, perché la maggior parte delle visite riusciamo a farle all'aperto, quindi la visita nei vigneti, quindi la visita un po' sugli spazi aperti ci permette di lavorare in un modo abbastanza sereno, e quindi diciamo che i calici di stelle e tutte le cene in le cene che si sono fatte con i vignaioli nel periodo estivo e adesso diciamo i primi di settembre sono state abbastanza tranquilli e sereni. Nel mese di ottobre un po' a livello generale, nelle prime due domeniche di ottobre si è lavorato abbastanza bene, le cantine hanno fatto accoglienza, abbiamo fatto cantine aperte in vendemmia con la possibilità, ecco, si vive quel famoso turismo esperienziale della vendemmia, della raccolta dell'uva, della pigiatura, quindi per un target di famiglia, anche spesso per i bambini, chiaramente distanziati, chiaramente con le mascherine, chiaramente con il termoscanner per il controllo prima di entrare in vigna o anche in azienda. We all shine, been burned over like the stars in the night. So cast a dream and watch it glide. L'Abruzzo purtroppo paga pegno, perché non ho mai ben compreso, nonostante la mia giovane esperienza, ho solo 32-33 anni di esperienza nel mondo vitivinicolo, e devo dire che purtroppo l'Abruzzo, come lei dice, spesso non ha quell'apprezzamento giusto. Noi abbiamo un territorio favoloso, mare, montagna, cibo, cucina, territorio bellissimo, vocato alla vitivinicoltura, perché abbiamo una grande produzione di uva anche di altissima qualità, visto i vigneti che abbiamo, la tipologia delle uve, vitigni autoctoni importanti e particolari che ci permettono sicuramente di vinificare in maniera interessante queste uve. E stiamo lavorando, i soci del Movimento Turismo del Vino ormai siamo oltre 50 e quindi facciamo iniziative. Quest'anno, un po' per la questione un po' generale, diciamo che cantina aperta in vendemmia, ultimo evento è stato fatto solo da 5 cantine, tra la prima e la seconda domenica, con percorsi vari, percorsi di accoglienza, percorsi di vinificazione, insomma, quindi molto molto positivo. Chiaramente col Calice di Stelle pure abbiamo fatto un evento importante, molto importante, regionale, dove nonostante diciamo il limite delle persone che potevamo accogliere, però ho avuto un'adesione di circa 45 cantine, quindi diciamo che c'è voglia di fare, c'è voglia di crescere, c'è voglia di promuovere il territorio, perché il vino è un ottimo strumento per promuovere il nostro territorio. Noi da ormai 4 anni facevamo il cammino dei vigni andanti, che è un percorso di circa 15 km, si fa in mezzo ai vigneti, agli oliveti, di una giornata, dove ogni 2 km c'era uno step e parlavano, c'è un agronomo, un enologo, un vignaiolo che parla di vino, che quest'anno abbiamo saltato. Adesso potremmo pensare, stiamo lavorando per organizzare cantina aperta a San Martino, quindi cercare di capire con la spillatura del vino nuovo e vedere un attimo se si riesce a portare gente in cantina, però questa è una cosa un po', chi lo sa come andiamo a finire, considerate che ormai qua giorno dopo giorno ci sono evoluzioni un po' particolari, ecco, anche perché non è che a novembre possiamo andare in vigna, sicuramente dobbiamo andare dentro le cantine, dentro le strutture, che comunque sono strutture areate, ben predisposte, però c'è sempre il pubblico che deve venire, e questo insomma non credo che sia una cosa facile da ottenere, ecco. Da qualche anno anche da noi Halloween è diventato un appuntamento fisso. Lo si festeggia per le strade, nei locali, si fa il giro degli appartamenti. Quest'anno però tutto dovrà essere rivisto, ma Mirabilandi hanno studiato novità e misure di sicurezza che vanno di pari passo. Il direttore generale del parco è Riccardo Marcante. Sì. La stagione è stata molto complicata, sì. Abbiamo avviato la stagione ovviamente in ritardo rispetto ai piani previsti inizialmente e dopo moltissimi studi su come affrontare le diverse situazioni, perché un parco è piuttosto complicato, non è diciamo un solo modo di fare business, ma mette insieme parecchie cose, dal negozio al ristorante, all'attrazione stessa, agli spazi, alle vie di fuga, insomma tutta una serie di cose che impongono il rispetto di protocolli molto diversi fra loro. Di conseguenza abbiamo dovuto collezionare appunto i vari protocolli relativi alla ristorazione, ai negozi al dettaglio, eccetera, eccetera, e farne uno nuovo. L'abbiamo fatto di concerto insieme alla regione, ovviamente, e agli altri parchi permanenti italiani, recependo le linee guida internazionali, poi quelle nazionali, quelle locali, insomma abbiamo fatto un'escalation al ribasso e al dettaglio di tutti quelli che sono state definiti come le misure necessarie. Fra queste misure ovviamente il distanziamento, ovviamente dovevamo scegliere se sanificare le attrazioni dopo ogni ciclo oppure se imporre ai clienti di pulirsi le mani con il gel prima di salire in ogni attrazione. Noi abbiamo scelto questa seconda strada, quindi ogni volta che un cliente sale su un'attrazione gli viene richiesto di indossare la mascherina, adesso è obbligatorio anche a prescindere dalla localizzazione, diciamo che quest'estate non lo era, quindi noi obbligavamo il cliente a mettere la mascherina quando entrava nel per fare le attrazioni, adesso ce l'avrà comunque, a lavarsi le mani prima di salire sull'attrazione. Poi ogni mezz'ora, ogni ora ci sono due squadre che girano per il parco a sanificare, perché a prescindere da tutto quello che abbiamo detto fino adesso, comunque una sanificazione più profonda è necessaria e quindi noi la facciamo a intervalli più o meno regolari di circa mezz'ora o un'ora a seconda delle attrazioni. Queste sono state le cose principali. Non abbiamo preso la temperatura e non prendiamo la temperatura all'ingresso, perché al di là del fatto che molta gente potrebbe essere asintomatica, ma abbiamo fatto molte prove e abbiamo verificato che dopo che una persona sta un minuto sotto il sole, immediatamente la sua fronte passa a 38 gradi. Abbiamo fatto le prove proprio noi stessi, persone che stavano benissimo, dopo un minuto sotto il sole avevano già una temperatura eccessiva. Non ultimo, anzi più importante, abbiamo sensibilmente ridotto la capacità massima del parco in modo tale da rispettare a prescindere da tutto le distanze. Questo significa che nella nostra tribuna per lo stand show ci sono 2000 posti e noi limitiamo i posti a 800-820 a seconda del numero di famiglie che ci sono, però abbiamo mappato tutta la tribuna facendo dei segni di un metro di distanza l'uno dall'altro e ci sono degli steward che man mano che la gente entra indica il posto e fa sì che venga rispettata la distanza rispetto alla famiglia, al nucleo familiare successivo. In più abbiamo eliminato alcuni spettacoli che potevano in qualche maniera creare assembramento, uno per tutti la parata finale e lo spettacolo di fuochi d'artificio di notte durante l'estate, sempre per rispettare questi pilastri delle misure di prevenzione anti-Covid, che sono sostanzialmente quattro, appunto ridotta affluenza, mantenimento delle distanze, mascherine e gel. In più abbiamo incrementato il numero di personale di pulizia e personale di controllo, quadruplicando di fatto il numero di addetti a questo tipo di attività per far sì che i bagni fossero sempre puliti e che la gente nelle queue line rispettasse le regole che ci siamo dati. Halloween è dal 2010 che è uno dei periodi più belli e più importanti per tutta la stagione di Mirabilandia. Ha iniziato, muovendo i primi passi quasi con cautela, diciamo così, ma ultimamente abbiamo veramente fatto dei numeri da non credere nelle giornate di Halloween. Anche quest'anno, quindi, noi siamo in pieno Halloween. In questo momento saremo aperti tutti i weekend fino al primo di novembre. Abbiamo il parco che è stato tematizzato con Halloween, quindi ci sono streghe, fantasmi, zucche, e in più abbiamo delle attrazioni che si chiamano tunnel, sia per adulti da una parte sia per bambini dall'altra, in modo tale da far immergere le persone in un'atmosfera di paura e di mistero. Gli adulti per quello che riguarda la paura, i bambini per quello che riguarda il mistero, quindi con fatine, pagliacci e cose di questo genere del circo. In questi tunnel, sempre per rispettare le regole di sicurezza, è obbligatoria la prenotazione gratuita da fare sul posto. Di conseguenza le persone che arrivano hanno due vantaggi: il primo, che sanno a che ora è il loro turno per entrare in questi tunnel, e il secondo, che sono sicuri che saranno insieme ai loro congiunti o ai nuclei familiari con cui sono arrivati, quindi non c'è modo di incrociare altri nuclei familiari. Questo per rispettare al massimo le esigenze di sicurezza senza penalizzare il divertimento. In più, il 31, la notte di Halloween, sarà una vera e propria horror night, perché saremo aperti fino a tardi e avremo degli zombie che infesteranno le strade del parco, sempre in totale sicurezza perché sono aree monitorate in termini di affluenza, per far paura ai nostri clienti e quindi far vivere loro un'atmosfera veramente al di là delle aspettative. Per questa domenica ci fermiamo qui. Come sempre, se volete scriverci, globetrotter@radio24.it. A tutti voi l'augurio di una bella settimana. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.